non mi serve. Le vostre azioni parlano per voi. Ora aprite le orecchie e fate tesoro di ciò che sto per rivelarvi. Per trovare la chiave della terra, dovrete affidarvi al potere delle geometrie naturali, che custodiscono la chiave nei loro punti più acuti. Ora, andate e salvate il regno.